سكني ماضني يختالوا على زمني وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختالوا على زمني وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختالوا على زمني وغد يزدان لبعدي غد وطني والله رعى وطني حرا في الآل وفي السكن وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد وطني والله رعى وطني وطني والله رعى وطني حرا في الأهل وفي السكن ماضني يختال على الزمن وغد يزدان لبعدي غد بلدي أحببتك يا بلدي بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد وسراك الحر تراب أبي وسماك يزف فزراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي للعيش الحلو وللرغد وللرغد أهواء. لم تزل مرعى للحب وللغزل وللغزل أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللرغد. بلدي أحببتك يا بلدي، بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فصراك الحر تراب أهلي وسماك يزف سماك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. فزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم. فزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فتراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. فثراك الحر تراب أبي وسماك يزف صبا ولدي. بلدي أحببتك يا بلدي. Thank you. Da Radio Cairo va ora in onda il notiziario. Cominciamo con il riassunto delle principali notizie. Riunione ministeriale sotto la direzione del presidente Mubarak. Attacco contro un gasdotto ad Al-Arish al nord del Sinai. Il comitato dei saggi incontra oggi il vicepresidente Omar Suleiman. Berlusconi dichiara che il periodo transitorio in Egitto esige il mantenimento del presidente Mubarak al potere. Ed ora le notizie in dettaglio. Il presidente egiziano Hosni Mubarak ha tenuto oggi una riunione ministeriale con il primo ministro Ahmed Shafik e il governatore della Banca Centrale Egiziana Farouk El-Oqda, il ministro del petrolio Sameh Fahmi, il ministro della solidarietà sociale Moselhi, il ministro del commercio e dell'industria Samiha Fawzi, il ministro delle finanze Samir Radwan e del capo del gabinetto presidenziale Zakaria Azmi. Un tentativo di assassinare il vicepresidente egiziano Omar Suleiman sarebbe stato sventato nei giorni scorsi, e quanto rivela oggi l'americana Fox News, citando fonti che precisano che nell'attacco sarebbero rimasti uccisi due guardie del corpo dell'ex capo dell'intelligence egiziana. Una fonte dell'amministrazione Obama ha confermato, se legge sul sito dell'emittente americana, che l'attentato è avvenuto subito dopo la nomina di Suleiman a vicepresidente il 29 gennaio scorso, e si sarebbe trattato di un attacco di corteo delle sue auto. Il portavoce della Casa Bianca, Robert Gates, si è rifiutato di rispondere ad una domanda in proposito. La rivoluzione egiziana entra nel suo dodicesimo giorno, mentre per tutta la notte ed oggi all'alba i dimostranti hanno sfidato ancora il coprifuoco a piazza Tahrir, diventata l'epicentro della rivolta al Cairo ed Alessandria. Le proposte nel corso della notte sono state in generale pacifiche, ma Al Jazeera ha riportato questa mattina all'alba la polizia ha sparato in aria nella piazza della capitale. Il coprifuoco era stato accorciato di 3 ore, diventando dalle 7 di sera alle 6 del mattino. Le forze armate hanno cominciato oggi a sollevare le barricate di protezione ed veicoli calcinati davanti al museo egiziano. Decine di manifestanti hanno tentato di impedire i carri dell'esercito dispiegati sulla piazza Al-Tahrir al Cairo di lasciare questo luogo. Quasi 200 altri manifestanti hanno appellato anche l'esercito a rimanere nella piazza. D'altra parte, l'esercito egiziano ha interrotto la fornitura di gas naturale che confluiva nel gasdotto fatto esplodere stamane nel nord del Sinai. Lo ha reso noto una fonte della sicurezza. Le forze armate e le autorità sono riuscite a chiudere la principale sorgente di flusso e stanno cercando di domare le fiamme, ha detto la fonte. L'Egitto fornisce quasi il 40% del gas naturale ad Israele ed a dicembre 4 aziende israeliane hanno firmato contratti del valore di 7,7 miliardi di euro per importare il gas dall'Egitto. Ignoti sabotatori avevano fatto esplodere un gasdotto che attraversava il Sinai settentrionale in Egitto e porta il gas ad Israele, lo ha reso noto la TV egiziana senza precisare se l'esplosione abbia interrotto il flusso di gas. Dei sabotatori hanno approfittato della situazione relativa alla sicurezza e ha fatto esplodere il gasdotto, ha annunciato un corrispondente TV, aggiungendo che c'è stata una grande esplosione. Il cornista ha accusato i terroristi dell'esplosione. La radio israeliana annuncia che l'esplosione di gasdotto tra Israele ed Egitto non ha danneggiato la conduttura e che la sospensione del rifornimento attuata dall'autorità del Cairo è stato deciso a titolo precauzionale. L'emittente ha citato una fonte del consorzio che controlla le importazioni di gas, secondo cui l'esplosione non è avvenuta niente affatto vicino al gasdotto. Il primo ministro egiziano Ahmed Shafik si è dichiarato fiducioso che l'Egitto sarebbe in misura di superare la crisi attuale ed accedere ad una nuova tappa ed un migliore futuro. Il capo del governo ha ugualmente assicurato che i manifestanti antigovernativi che occupano la piazza Tahrir al centro del Cairo non saranno sloggiati di forza. Il ministro degli affari esteri Ahmed Abolghit ha affermato che il popolo egiziano rifiuta le ricette imposte dall'estero per risolvere la crisi attuale in Egitto. Nel corso di una intervista con il canale americano CNN, Abolghit ha indicato che il presidente Hosni Mubarak inizierà il processo di transizione al potere di una maniera organizzata. Il Comitato dei Saggi si incontrerà oggi con il vicepresidente Omar Suleiman nel quadro di un tentativo di risolvere la crisi attuale. Il Comitato dei Saggi, che si occupa ad arrivare ad una soluzione della crisi dei manifestanti a Tahrir, ha presentato un numero di proposte ai manifestanti per costruire il fondamento del dialogo tra loro e del governo. Il primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha dichiarato che il presidente Hosni Mubarak deve rimanere al potere nel corso del periodo transitorio in Egitto verso la democrazia. Al suo arrivo a Bruxelles per partecipare al vertice dell'Unione Europea, Berlusconi ha espresso la speranza che la transizione verso un regime più democratico abbia luogo senza escludere il presidente Mubarak. Il capo del governo italiano ha ugualmente sottolineato che l'Occidente considera il presidente Mubarak come un uomo di Stato saggio. Carissimi amici, potete ascoltare fra poco il commento politico su questo argomento. L'ambasciatore americano al Cairo ha smentito le informazioni che pretendono le implicazioni di una macchina appartenente all'ambasciata in un incidente che ha fatto decine di feriti al Cairo. In un comunicato pubblicato oggi, l'ambasciata americana afferma che nessun dei suoi impiegati o dei suoi diplomatici è implicato in questo incidente. Essa indica ugualmente il volo di un numero delle sue macchine il 28 gennaio scorso, data dalla quale dei rapporti indicano che queste macchine sono utilizzate in delle azioni criminali. Il comunicato ha denunciato queste azioni. Da Radio Cairo avete appena ascoltato il notiziario. Carissimi amici, vi invitiamo all'ascolto del commento politico creato stasera dal titolo L'Egitto, i giorni più lunghi. Gli L'Egitto non sarà in alcun modo come la Tunisia ed il presidente Mubarak non lascerà il paese, come invece ha dovuto fare il presidente tunisino Ben Ali. Così il vicepresidente egiziano Omar Suleiman ha detto in un'intervista esclusiva concessa all'emittente americana ABC. Suleiman, che ha avuto un colloquio sia con il segretario di Stato americano Hillary Clinton sia con il vicepresidente John Biden, ha confermato che Barack Obama ha chiesto a Mubarak di lasciare. Ho spiegato al segretario Clinton che si tratta di un processo al termine del quale il presidente Mubarak lascerà il suo posto, ha detto Suleiman. Ma Mubarak non lascerà mai il paese. L'Egitto non sarà in alcun modo come la Tunisia. Qui è diverso. Conoscete bene il nostro presidente, è un combattente. Ha vissuto in questo paese e morirà nella sua terra. Tutto ciò nel tempo in cui il presidente Mubarak stesso, che è intervistato dalla TV USA ABC, ha detto di voler andarsene, ma di non poterlo fare per evitare il caos al paese. Tutto l'Occidente, Stati Uniti in testa, considera Mubarak un uomo saggio. Da Bruxelles, dove si trovava per il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, il premier Berlusconi esprime la sua opinione sulla crisi egiziana e lo fa augurandosi che la transizione verso un sistema più democratico non comporti rotture con un presidente come Mubarak. Sperando che ci possa essere una comunità di governo, il presidente del Consiglio sottolinea come lo stesso Mubarak abbia già annunciato che né lui né i suoi figli si presenteranno alle prossime elezioni. Da parte sua, il primo ministro egiziano Ahmed Shafik ha escluso la possibilità di un passaggio di poteri dal presidente al vicepresidente, così come proposto dal Comitato dei Saggi. Lo ha detto lo stesso Shafik in un'intervista, nella quale ha spiegato che i poteri devono rimanere in mano al presidente per motivi legislativi, per poter portare a termine le riforme costituzionali. È una valutazione molto delicata e molto difficile. Sono i giorni più lunghi e più duri nella storia del paese. Onestamente, non c'è rischio perché allo stato attuale non esistono gruppi contrapposti e armati. Esistono gruppi di sostenitori di Mubarak, alcuni violenti e in qualche caso addirittura armati. Esiste anche una gran massa di manifestanti contro Mubarak e contro il regime, che non fa uso di armi e privilegia la protesta civile. Carissimi amici da Radio Cairo, avete appena ascoltato il commento politico curato e presentato da Tessam Abdelmegid dal titolo L'Egitto e giorni più lunghi. Amici, vi presenteremo una rassegna stampa come sempre di attualità. Cominciamo il nostro giro di stasera con il quotidiano Al-Ahram e leggiamo le manchette essenziali. Al Cairo, la preghiera sulla grande piazza Tahrir è stata seguita da migliaia di persone nell'undicesima giornata dei proteste di piazza. Nelle cerimonie è stato sottolineato che la protesta è nazionale. Nelle prediche nelle moschee, gli imam hanno lanciato appelli alla calma ai manifestanti che continuano ad affluire alla piazza, molti con le bandiere egiziane nel tentativo di bessare la marcia del milione di martedì. Il governo si è impegnato a garantire che le manifestazioni possano avvenire in maniera pacifica. Il ministro della difesa Tantawi si è recato personalmente alla piazza questa mattina per verificare le misure di sicurezza. L'esercito lo sta presidendo per evitare che bande di violenti possano entrare dando vita a scontri come due giorni fa. Dal quotidiano Al-Ahram passiamo, carissimi amici, al quotidiano Al-Gumhuriya e leggiamo. Il generale Omar Suleiman, ex capo dei servizi segreti ed il nuovo vicepresidente, laureato in scienze politiche, diviene direttore dell'intelligence egiziana, quindi interlocutore fondamentale per tutte le questioni riguardanti la sicurezza in Medio Oriente e nel rapporto tra l'Egitto e gli Stati Uniti. È stato cruciale nell'azione di mediazione tra palestinesi ed israeliani, nonché con Hamas per far cessare l'ultimo conflitto a Gaza. Concludiamo, carissimi amici, il nostro giro di stasera con il quotidiano Al-Akhbar e leggiamo. Un clima di tensione e di attesa impresa nella striscia di Gaza che segue in massa e con apprensione gli eventi della rivoluzione popolare egiziana. In questi giorni, proprio sulla scia della rivolta egiziana, le notizie che si sono giunte dal territorio palestinese assediato parlavano di una chiusura ad oltranza del valico Rafah al confine con l'Egitto. Parlano anche di blocco delle attività dei tunnel della sopravvivenza e della possibilità che Israele occupasse il corridoio Filadelfia, passaggio tra la striscia di Gaza e del settore settentrionale della penisola del Sinai. Da Radio Cairo avete appena ascoltato una rassegna stampa del sabato. Ed ora, carissimi amici, concluderemo con il riepilogo delle principali notizie. Riunioni ministeriali sotto la direzione del presidente Mubarak. Attacco contro un gasdotto ad Al-Arish al nord del Sinai. Il comitato dei saggi incontra oggi il vicepresidente Omar Suleiman. Berlusconi dichiara che il periodo transitorio in Egitto esige il mantenimento del presidente Mubarak al potere. الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطراده فرايد عقدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وطراده فرايد عقدي إن مجدي في